Friuli nel mondo, 138esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte di primavera. Tempo di primavera questo, e le villotte che udrete, cari amici radioascoltatori, piene di sentimento e di calde immagini, sono ispirate al festoso ritorno della primavera. Una vera elegia alla bella stagione, al tiepido sole e alle serene notti del nostro cielo pieno di tremule stelle. Il coro di San Lorenzo di Sedeliano, diretto da Leandro Plenizio, canta le villotte Primavere Benedette di Arturo Zardini e La Viarte di Gallerio e Luigi Garzoni. Dal quartetto Stella Alpina di Cordenons ascolterete quindi La Gnote d'Avril di Zorutti e Zardini o Champanis di Sabi de Sere di Luigi Garzoni, In che sere di Enrico Fruch e Luigi Garzoni. E infine In Cil e Ie une stele di Luigi Cuoghi e Tita Marzottini. Amor, amor, amor,

Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pelizzari.